Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Figli di, il programma che viene realizzato all'interno delle officine Babilonia di Cosenza, uno spazio che si trova all'interno di una particolare area, cioè un'area fondamentalmente occupata da tante associazioni, tante realtà di diversa e varia natura, che si trova appunto nell'area delle ex officine delle Ferrovie della Calabria su Viale Parco. In realtà l'accesso è da Viale Parco, da Via Popilia, vabbè. Forse di questa cosa magari non importa tantissimo a tutte le persone che ci stanno ascoltando, numerosissime. Questa sera il programma Figli di si occuperà di una questione che comunque ci ha toccato veramente molto da vicino per diversi motivi. Parliamo cioè di quello che è accaduto negli scorsi giorni, più precisamente nella notte tra il 14 e il 15 maggio scorso, quello che cioè è avvenuto al CSOA Cartella di Reggio Calabria. Brevemente ricordiamo quello che sono i fatti, ovvero questo centro sociale che ormai agisce nella città da oltre da 10 anni, che è uno dei pochi in Calabria, l'unico ovviamente, l'unico sfortunatamente, diciamo, a Reggio. Vorremmo vedere tanti centri sociali, tanti spazi occupati e autogestiti in tutte le città italiane. Ebbene, questo centro sociale è stato dato alle fiamme, quindi tutta l'attrezzatura che era presente all'interno del centro sociale è andata alle fiamme, tutti i lavori che sono stati nel corso del tempo eseguiti per il ripristino di questa di quella che era una fatiscente struttura, sono stati appunto resi vani dalle fiamme, ma non è stata sicuramente piegata la volontà delle persone che creano il centro sociale, che danno vita al centro sociale Angelina Cartella. Quindi immediate sono state le reazioni, immediati sono stati i comunicati di solidarietà da parte di tante tante realtà, non solo calabresi ma anche e soprattutto italiane. Infatti il centro sociale Angelina Cartella è un centro sociale che ormai viene riconosciuto per la sua attività in tutta la penisola, sicuramente. Il centro sociale è stato dunque devastato dalle fiamme e sono stati imbrattati i muri con delle svastiche, delle scritte che inneggiavano al duce e via dicendo. Tutto questo in una città come Reggio Calabria, dove la violenza di stampo mafioso, la violenza di stampo fascista è all'ordine del giorno. E questa cosa, chiaramente, questo avvenimento non fa che ricordarci che il centro sociale Angelina Cartella, forse proprio perché riesce ad aggregare la vita del quartiere e non solo di poche persone, ma proprio grazie alla sua attività, è stato sicuramente preso di mira da chi invece vorrebbe avere in questo spazio di Reggio, precisamente nel quartiere di Gallico, uno spazio invece dove magari continuare a spacciare come si faceva 10 anni fa alla luce del sole, continuare a effettuare vari traffici, varie azioni illegali, nel senso di azioni mafiose e magari anche un po' fascistelle, perché poi alla fine mafia e fascismo, insomma, forse vanno anche di pari passo. Ebbene, chi voleva piegare il centro sociale Angelina Cartella da più tempo in realtà stava conducendo una battaglia di terrorismo psicologico nei confronti del Cartella, e quindi più volte sono stati effettuati dei furti, imbrattati i muri, anche messa la colla nei lucchetti del centro sociale, insomma tutte quelle piccole e grandi azioni di terrorismo psicologico, come appunto dicevamo prima, per dare un segnale a quelli del Cartella. Tuttavia il segnale è arrivato forte e chiaro non da questi pseudo mafiosi fascistelli, ma dalle realtà che stanno intorno al Cartella e dal Cartella stesso, che subito si è riunito in assemblea, ha cominciato dunque a lavorare per la ricostruzione, e quindi vediamo che è stata lanciata una campagna di sottoscrizione nazionale per la difesa del Cartella, per la ricostruzione del Cartella. E subito sono dunque entrate in azione le varie catene di solidarietà che si concretizzeranno in un primo momento, cioè nel 26 di maggio prossimo, sabato quindi, quando ci sarà a Gallico una manifestazione che vede la partecipazione di numerose realtà, non solo reggine ma calabresi ed italiane. Si attendono infatti delegazioni, pullman, presenze un po' da tutta Italia, da Cosenza, da Palermo, ma si parla anche di Roma, Milano, e sicuramente tante tante persone che hanno conosciuto nel corso di questi anni i ragazzi, le ragazze, i compagni, le compagne del centro sociale Angelina Cartella, sicuramente faranno avere la loro presenza qui a Reggio Calabria. Qui a Reggio Calabria è un qui perché noi in questo momento ci sentiamo a Reggio, ricordiamo però che siamo alle officine a Babilonia, e questo lapsus, vabbè, ci sta, perché quest'oggi in realtà comunque cercheremo di avere una puntata un po' più seria, ma questo non perché noi siamo di colpo diventati seri, semplicemente l'argomento ci colpisce e non ci viene spontaneo ciotiare, come si dice a Cosenza, cioè folleggiare, come è invece nostro solito fare. E quindi dicevamo che il centro sociale Angelina Cartella rinascerà, sta già rinascendo, fondamentalmente non è mai morto, perché a fare una struttura non è certo uno spazio, non sono certo quattro mura, ma sono le persone. Si possono avere grandissimi edifici, bellissime strutture, ma se non c'è un gruppo unito, se non c'è un gruppo solidale, non esiste nessun luogo, non esiste nulla. Invece il centro sociale Angelina Cartella esiste, vivo e vegeto, ed è ancora più forte, ancora più bello, ancora più grande, e risorgerà tale anche nella struttura, e sicuramente lo farà grazie all'apporto di tutta la città di Reggio e di tutta Italia. Infatti, come dicevamo prima, numerosi sono stati i comunicati che avete certamente letto in rete, che avete certamente ascoltato in numerosi programmi di informazione indipendente, anche su queste frequenze, cioè sulle frequenze di radiotransizione di fase, e quindi non ci resta che essere tutti quanti presenti a Reggio per la manifestazione che si svolgerà appunto nel quartiere di Gallico. Il centro sociale Angelina Cartella infatti sorge proprio in questa zona, in questa area della città di Reggio, un'area abbastanza difficile, ma proprio grazie forse a questa difficoltà il centro sociale Angelina Cartella, però lo diciamo, è un centro sociale vero e proprio nel senso di radicamento sul territorio. Non è uno spazio qualsiasi, lo diciamo, è uno spazio al quale in realtà da più anni si guarda con estrema simpatia, anche lo diciamo con chiarezza, guardiamo spesso al Cartella come ad un modello interessante, che certamente rispecchia la specificità di Reggio, ma che può essere un punto di riferimento per quantomeno il meridione, ma noi crediamo per tutta l'Italia, insomma, non stiamo esagerando, lo diciamo davvero, siamo convinti di quello che diciamo. Quindi per tutti questi motivi e altro ancora, ovviamente, saremo a Reggio Calabria tutti quanti uniti e compatti. Ma ora io direi di ascoltare un brano. Questa oggi non abbiamo gruppi, diciamo così, di riferimento. Ascoltiamo dunque il primo brano musicale di oggi. Per altro che pace e lavoro ci hanno portato davanti alle fabbriche, schierano il carro armato e radono al suolo le case di forni del pane, perché tutto un popolo in lotta patisca la fame. È guerra tra il cane che sfrutta e l'uomo sfruttato, è guerra tra il porco che inganna e l'uomo ingannato, è guerra tra il popolo schiavo che soffre e patisce, è il cane che affama ed opprime e il dolore sancisce. Eppure qualcuno ha creduto alla pace coi lupi e adesso ci stanno opprimendo e rendono i tempi più neri, più cupi. Se oggi nessuno ha timbrato è perché non serviva, e nelle galere han portato chiunque reagiva. Peccato che il tempo sia stato fissato da loro, invece che nascere prima dal nostro lavoro. Nei campi nessuno ha guardato se il tempo è cattivo, nei prossimi giorni il sereno non porterà cibo. Ma stacca dal chiodo il tuo pezzo di sano potere, se il tempo è fissato da loro non stare a sedere. Non vincono, non vinceranno, non hanno domani, la forza è nel puntello impugnato da oneste fortune. bellissime mani. Sarà ravvivato da noi, nel posto, nel tempo e nel modo fissato da noi. Nessuno potrà soffocarlo, diventerà immenso. Mi sembra già di vederlo, se solo ci penso. Non vinceranno, non hanno domani. La forza è nel puntello impugnato da oneste, fortissime mani. E c'è anche la luce, dice Virgi. Siamo qui all'Officina Babilonia per il programma Figli di, che viene trasmesso solo su Radio Transizione di Fase. Avete ascoltato una canzone di Pierangelo Bertoli, Non vincono. Questa canzone in realtà musicalmente non ci piace molto, lo diciamo, insomma, non è proprio il nostro genere, va? Però era una canzone dovuta, una canzone che dedichiamo con tutto il nostro cuore alle persone che hanno pensato male di dar fuoco al Cartella, al centro sociale Angelina Cartella di Gallico, Reggio Calabria, che nella notte del 15 maggio, è stato dato alle fiamme ed è stato anche imbrattato con delle scritte, come dicevamo prima, inneggianti al Duce, all'SS, vi dicendo, insomma, con le stronzate micidiali che solo menti contorte e cazzone possono fare. Questa puntata di Figli di, infatti, è dedicata proprio al centro sociale Angelina Cartella, è dedicata anche a ricordarvi il fatto che il 26 maggio prossimo, cioè sabato, ci sarà una grande manifestazione proprio a Reggio Calabria, proprio nel quartiere Gallico, una manifestazione che dalle ore 16 partirà dal centro sociale Angelina Cartella e si muoverà all'interno del quartiere di Gallico, il quartiere dove appunto sorge il Cartella, e ritornerà poi al Cartella stesso. A questa manifestazione, lo dicevamo anche prima, prenderanno parte numerose delegazioni, numerose persone provenienti non solo da Reggio ma da diverse zone d'Italia. Ci sono numerosi pullman addirittura che sono stati organizzati per l'occasione, da Cosenza, da Palermo, ci giunge notizia, poi sapevamo di pullman forse da Milano, forse da Roma, ancora al momento in realtà non abbiamo notizie certissime, ma non perché non esistano, semplicemente siamo stati noi così minchioni da non riuscire a documentarci per tempo. Ad ogni modo, la manifestazione sarà da monito a chi intende, questo per come la vediamo noi ovviamente, da monito a chi intende sopprimere con le fiamme e con qualche stupida scritta una realtà importante, una decennale realtà come quella del Cartella. A queste persone appunto abbiamo dedicato Non vincono, questa canzone di Pierangelo Bertoli, una canzone che come dicevamo, vabbè, non ci piace molto, eccetera, però è bella come testo, è molto significativa. Al momento comunque la nostra cara co-conduttrice Virgi sta attraversando lo spazio delle Officine Babilonia, uno spazio che, lo ricordiamo, è occupato, lo ricordiamo questo, a scanso di equivoci, e ora è giunta qui. Qui intanto siamo al buio in questa officina, semplicemente perché ci secca andare ad aprire la luce, ma lo diciamo, perché dovremmo fare 30.000 cose, insomma, ci secca. Intanto odiamo i passi tac tac di Virgi, che in questa puntata, per questa puntata, ha indossato dei tacchi. Io vedo delle scarpe bordeaux, di vernice bordeaux, vero Virgi? Mi dai conferma che le tue scarpe sono bordeaux? Mi dai conferma? Stai arrivando? Sì? Ti do conferma. Ok, ok. E queste scarpe Bordeaux comunque sono il tocco estroso, anche altro, diciamo. Io so che Virgi vuole commentare altri tocchi estrosi presenti in questa sala. Certo, le mitiche parigine di Mary, di Candy. Bellissime. Non riesco a capire il colore. Di che colore sono? Te lo dico io, sono verdi, perché siamo al buio. Sono verdi con degli intarsi neri. Sono una ciotia, però me l'hanno regalate. Una mia amica me le ha regalate durante un compleanno. Io le utilizzo perché mi piacciono, insomma. E sì, no, restano, resistono alla gamba, perché non lo so, ci sta. A me non cadono, a te cadono, Virgi. Purtroppo sì, anche le autoreggenti. No, a me non cadono, no, infatti le uso molto. Vabbè, basta, ma veramente siamo come al solito, no? Io volevo fare una puntata seriosa che parlava del cartello, di quello che è successo, e fino ad ora ce l'abbiamo fatta, insomma, perché se uno ci crede alle cose riesce a farle. Però poi alla fine quello che siamo esce sempre fuori, figli di si manifesta sempre per quello che è, e quindi stiamo cominciando a folleggiare parlando di quelli che sono i nostri abbigliamenti odierni. Ma ritorniamo alla puntata di al tema della puntata di oggi, che è proprio quello del cartello. Nella scorsa settimana, lo diciamo, sfortunatamente abbiamo avuto problemi di connessione molto seri. Una connessione ci è stata sottratta, non sappiamo il perché, il motivo, non sappiamo. Fatto sta che il nostro computer non riusciva più a intercettare la connessione libera, e quindi sti cazzi. Non abbiamo potuto fare la puntata, che anche in quell'occasione sarebbe stata dedicata al cartella. Quindi abbiamo perso tutti i dati, tutto, e niente, non c'è niente da fare, l'abbiamo persa. Ma questa volta invece no, siamo qui presenti alle officine Babilonia di Cosenza per questa trasmissione, per questo momento fondamentalmente di informazione, che appunto vuole ricordarvi quello che è accaduto al centro sociale Angelina Cartella. Ma ora io direi che dovrei ricordarvi un'altra cosa importante. Virgi intanto mi sta passando una caramella, che cos'è? Una rossana, no? Una caramella alla menta. Magari quando c'è il... ora se la mangio ora penso che... forse non è una cosa molto simpatica, diciamo. Però niente... No, non lo dico questo termine, che sennò non dico quello che ha detto Virgi, non lo ripeto. Se lo vuoi ripetere tu, Virgi, vuoi ripetere? Vabbè, il risucchio della caramella. Il risucchio della caramella. E qua potete anche lo scarto della caramella. Stiamo mangiando caramelle perché ci piacciono le candy. I like a candy. E ora chi conosce bene l'inglese, se è in ascolto, mi cazzierà. Comunque, ritorniamo a quello che è l'argomento di oggi, appunto l'incendio al cartello e tutta la grande solidarietà che si è sviluppata intorno al centro sociale Angelina Cartella. Vi ricordiamo dunque che c'è questa manifestazione del 26, vi invitiamo dunque a partecipare, e vi invitiamo anche al Media Center, che verrà allestito per l'occasione. Ovviamente sarà presente Radio Transizione di Fase, mi dicono che sarà presente anche Indie Media Calabria, e saranno presenti tante tante persone che intenderanno dare un loro contributo informativo al centro sociale Angelina Cartella. Crediamo che infatti questo sia il modo migliore, il nostro modo, quello che sappiamo più o meno fare, non diciamo bene, che sappiamo più o meno fare, per ricordare, per manifestare la nostra solidarietà. Quindi chiunque vuole può venire il 26 al Media Center, lo riconoscerete perché quantomeno ci sarà uno striscione arancione, che ce l'abbiamo già, che dove c'è scritto Media Center, quindi non vi potete sbagliare. No, non ho trovato quello di Transizione di Fase, che sfortunatamente è stato trafugato, ma ce n'è un altro che è sempre bello, che l'avevo conservato per tempi migliori. Quindi ci sarà questo Media Center allestito, ricordo, da Transizione di Fase, da Indie Media Calabria e da tante tante tante persone, tante realtà. E quindi chi vuole può venire lì a fare informazione. Se avete una pennetta con connessione siete ancora di più benvenuti, ve lo diciamo. E sicuramente potete ascoltare su Radio Transizione di Fase gli avvenimenti della giornata. Rimbalzeremo anche i segnali su altre radio, molto probabilmente. Comunque rimanete all'ascolto di Radio Transizione di Fase, così potrete partecipare virtualmente all'evento. Ora un altro brano, comunque. Thank you.

Praticamente voi dovreste vederci. Ci vorrebbe una webcam. Siamo qui al buio perché ci secca aprire la luce, che è una cosa complicata. Dietro un bancone che una volta era di un bar e mo è stato praticamente demolito da altre persone. E siamo qui di fronte a questo micro computer come due ciote. In attesa di tempi e di cose migliori. Ed è per questo motivo che facciamo anche questo programma, un po' per esorcizzare le nostre disgrazie, le nostre negatività. Ma perché ogni tanto non splende pure il sole dalle nostre parti? E splendi sto cazzo di sole. Niente, non ne vuole sapere, siamo qui al buio e ci resteremo. Certo, ci resteremo. Ma dimmi una cosa, la sigla, quella che ti avevo chiesto? E quella la canteremo noi a cappella. No, doveva essere. Ci sono problemi. E ci sono problemi tecnici insormontabili. Ovvero una connessione di merda. E vabbè, ma queste connessioni di merda ormai ci contraddistinguono come tutti i vari problemi tecnici. Però noi andiamo avanti lo stesso. E volevo intanto ricordare che questa trasmissione oggi è dedicata agli avvenimenti del Centro Sociale Angelina Cartella, che è stato dato alle fiamme. E vi ricordiamo che il 26 di maggio è presente questa manifestazione proprio a Gallico. Avete ascoltato infine a Gallico, a Reggio. E avete ascoltato intanto una bella canzoncina, questa ci piaceva, la canzone di Pierra. È bella la canzone di Pierra dell'Officina della Camomilla. Sì, sì, l'Officina della Camomilla, sti cazzi. Sti cazzi, sì, noi sosteniamo Officina della Camomilla ora e sempre, perché siamo solidali con Officina della Camomilla e ringraziamo sempre Officina della Camomilla perché è stata qui alle Officine Babilonia per la serata Benefit per autistici Inventati, e ci siamo divertiti molto in quella serata, vero Virgi? Abbastanza. Io molto. Io anche. Io molto, infatti sono tornata a casa alle 6 del mattino, ci sarà stato un motivo. Però non te lo chiediamo qual è stato il motivo. No, io non lo svelerò mai, sono una persona molto discreta, no, ma mi sono, come si dice a Cosenza, mi sono scialata, ogni tanto ci vuole. Poi si ricchiomba, insomma, in questo buio, in questa melma, in questa palude, vabbè. Noia e paranoia. Noia. Ed è una canzone degli CCCP questa. Tutto il resto è noia. Questo è di chi Califano. È questo? Mi sa Califano. Noia. Tutto il resto è noia. Na na na na. Non la so. Oh, meno male che eravamo partiti come puntata seria. E tutto il resto è noia. Ho detto noia. Evviva noi. E brindiamo. Se avessimo qualcosa con cui brindare. Ci sono solo delle birre super calde che secondo me ci fanno venire dopo una cacarella micidiale. No, assolutamente. Ci manca solo quella e poi siamo rovinate. No, niente. Non attingiamo. Forse ci potrebbe essere, in onore di Garulf, potremmo attingere a una bottiglia di una schifezza, proprio schifezzissima. Tant'è vero che anche Garulf l'ha lasciata qui, vi lascio capire. Che è una bottiglia di vodka, una vodka veramente squadente, ma proprio scadente al massimo. Quindi la beviamo, Virgi, questa vodka. No, non c'è la gassosa al caffè. Ma è calda. Non fa niente, ma no, un po' ci ripiglia. Masaccio. Questo masaccio in realtà va fa parte buia. No, masaccio. No, masaccio è in realtà una battuta di una fantastica commedia che è stata realizzata qui all'interno delle Officine Babilonia. E vi ricordo che c'è anche questo progetto molto interessante e molto carino di uno spettacolo sociale per Cosenza, da realizzare non si sa quando, ma da realizzare. Quindi magari se qualcuno è interessato potete anche contattare la nostra redazione. Ma intanto io direi di appropinquarci e preparare un altro bel brano, insomma, scegliamone uno insieme, Virgi, dalla mia fantastica raccolta di Niente di serio, sì, mi piace, perché hai scelto una canzone, Virgi, che mi piace proprio assai. Ed è una canzone del mio gruppo preferito in assoluto. Non me ne voglio l'Officina della Camomilla, ma insomma, l'età è l'età. I Diaframma, questa canzone fa parte dell'ultimo lavoro di Federico Fiumani con i suoi fantastici diaframma, quindi io direi che fare questa canzone niente di serio. Poi inquietante, e effettivamente è così. Abbiamo ascoltato però un bel brano, un brano del mio gruppo preferito in assoluto, e chi mi conosce lo sa molto bene, i Diaframma, i mitici Diaframma, che noi attendiamo di vedere per questo nuovo tour. Sono infatti in tour ultimamente, quindi speriamo di vedere Federico Fiumani imbracciare la chitarra e regalare al suo vasto e animoso pubblico le sue più belle canzoni. Bene, intanto vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase per questa puntata di Figli di che viene realizzata all'interno dell'Officina Babilonia di Cosenza. E l'argomento scelto oggi è doveroso, nel senso che non perché ce lo siamo sentiti come un dovere, in realtà, ma perché ci è venuto spontaneo. Stiamo parlando del centro sociale Angelina Cartella che è stato dato alle fiamme nella notte del 15 maggio. È stato distrutto interamente, questo luogo, perché era un centro di aggregazione sociale che funzionava veramente bene, era l'anima di quella parte di Reggio. Di tutta Reggio. Di tutta Reggio, ma di quella parte nel senso della rappresentanza migliore di Reggio, diciamo. La Reggio migliore. La migliore Reggio di sempre. Sì, sì, sì, sì. Parafrasiamo. Non ci resta che di questo. E insomma, noi siamo molto solidali per quello che è successo, siamo molto incazzati per quello che è stato fatto, perché distruggere qualcosa che di buono c'è non è sicuramente una cosa bella da vedersi e da farsi. Comunque, purtroppo c'è gente così in giro e non possiamo fare altro che resistere, prendere coscienza di questa cosa e combattere questa cosa. Dimostrare il nostro dissenso in tutto e per tutto. Ok, adesso sempre qui dalle Officine Babilonia, io e Candy siamo insomma un po' così, un po' sottotono, però insomma vediamo di riprenderci, perché non vogliamo assolutamente trasmettervi la nostra tristezza. Allora, la melanconia. Melanconia. E allora c'è quella canzone che fa tristezza va. Tristezza no, non la so. Come non la so? No, io so tristezza. Però a me era venuta in mente una canzone degli Eckerzend e Noi Baden. Mela, melanconia. E poi è in tedesco e quindi non la potrei mai cantare. Pensavo che mela, poi dicessi mela, dai, non la diamo. Non è proprio periodo, anzi, se si presenta qualcuno di decente, ma veramente, deve essere qualcuno che ne valga veramente la pena, vero Candy? No, ma io non dico nemmeno questo, no, è che non diciamo niente. E che buchi! E che buchi! E che incarti! Candy! No. E zucchero filato! Che felicità! E a spasso col suo cane! Col suo cane no! Era col suo gatto, perché poi chi ha scritto sta canzone di la sigla di Candy era un ignorante, perché hanno visto che Candy aveva l'animaletto appresso, che era un procione. Ma era giapponese. No, hanno scritto che era un gatto nella canzone, non era un gatto, però era un procione. Essendo un cartone animato giapponese. Tu mi confermi questa cosa qui? Sì. Perché voglio dire, Candy è uno dei miei ricordi lontani nella memoria. No, io molto vicino, che dove lo vedo su YouTube, insomma, mi fermo a guardarlo. Io guardo ancora ora i manga, che me ne frega, gli anime, scusate, leggo i manga che mi piacciono molto. No, a me piacciono tanti i Puffi e Pollon. Vola. No, vabbè, ma io, insomma, no. No, a me piace molto invece un bel cartone animato che ogni tanto credo di vivere, in realtà. Cioè? Si chiama Nana. Sono due ragazze che praticamente hanno la stessa età, hanno lo stesso nome e vanno entrambe in Giappone a Tokyo, si trasferiscono a Tokyo per realizzare i loro sogni. Una va presso a un ciambrello di fidanzato, l'altra c'era pure il ragazzo, però non gliene frega più niente perché insomma è una molto, molto dura, molto e vuole diventare una famosa cantante. Io non vi dico in che cosa mi identifico. Candy, ma noto delle analogie. Come no? Sì. Ho sentito che cosa hai detto, se tu lo sottolinei io continuo a ridere e anche tu, ma io ho volevo... Ho detto analogie. L'analogico è il digitale, era un libro di sociologia delle comunicazioni di massa, adesso quei libri sono vetusti, sono andati, perché adesso noi passiamo direttamente sul digitale. L'analogico ci interessa? No. Sì, dai, è sempre bello. Solo il digitale per il momento. analogica e digitale, però vanno di pari passo un po'. Certo. Dipende dalla controparte. Siamo come te, io sono analogica e tu sei digitale. Ah, ok. Perché tu sei molto più informatizzata di me per questo. Perché sì, ti muovi nell'etere come una libellula. Nell'etere, diciamo nella rete. L'etere. Noi nell'etere non ci siamo, Virgi. Nell'etere c'è la nostra controparte. Ma diciamo qual è la controparte? Quella che molti ci dicono essere la controparte, cioè Radio Ciroma. Ah, che ho pronunziato ora! Radio Ciroma. Vabbè, con l'occasione salutiamo Garuf e Ono Sendai. Ah, ok, salutiamo Garuf e Ono Sendai, che fanno questa trasmissione che va sia su... La controparte. Però viene anche trasmessa la transizione di fase, però la fanno là dentro. Noi non diciamo niente, non diciamo niente. Niente. Ma noi siamo qui, in Berter, non ce ne frega niente, siamo qui alle officine a Babilonia, in questo buio totale. Buio assoluto. Ma non si vede proprio niente. Che dobbiamo fare? Io direi, beh, ricordiamo alcune ultime cose, perché anche la batteria del cellulare se ne sta andando, forse. No, questo è il risparmio energetico, no, la batteria si frega. E dunque, diciamo questo. Diciamo che le officine... Che cazzo sto dicendo? Scusate. Diciamo che la trasmissione di oggi era dedicata a quello che è accaduto al Cartella, al Centro Sociale Angelina Cartella. E vi ricordiamo che sarà radio transizione di fase nel Media Center, allestito da tante tante persone, tante realtà, tante anche in Media Calabria, tante altre persone che si aggregano. Ci saranno tante tante persone? Sì, tante tante persone nel Media Center, suppongo. Sì? Quindi c'è tanto tanto tanto tanto da vedere? Sì, come no? Tanto tanto tanto tanto da scoprire? Proprio sicuramente, guarda. Tanto. Basta. Insomma, ci sarà questo Media Center e Radio Transizione di Fase trasmetterà in diretta il segnale streaming. Quindi potete, se non potete venire a Reggio, potete ascoltare però Radio Transizione di Fase, Radio Blackout, Radio Onda Rosso, Radio Sticazzi, non lo so, insomma tante radio che rimbalderanno il segnale per il 26 pomeriggio. Noi vi racconteremo minuto per minuto, attimo per attimo, tutto ciò che accadrà. Quindi mi raccomando, seguiteci. Yes, seguiteci, seguite Radio Transizione di fase. E io direi che ora forse ce la possiamo fare a smettere di parlare. Sì, sì, penso che sia il caso. Anche se la tentazione di parlare è forte, però basta. No, io devo andare al bagno, in realtà. Però virtualmente virtualmente ci arriveranno uova marce e pomodori in testa. Già da mo. Però vabbè, dai, saremo insieme a persone serie, cercheremo di fare i seri. Sì, più o meno. Sì. Sì, no, ce la possiamo fare. Ci sta. Bene, io direi che ora è giunto il momento di salutarvi. Vi lasciamo all'ultimo brano, ma lo scegliamo l'ultimo brano, Virgi? Ah, cantiamo la nostra sigla, poi magari mandiamo, che ne so, un brano a caso. Niente di serio, l'abbiamo già detto. Ma io direi, no, io direi sempre l'officina della camomilla. Officina della camomilla. Se trovo una bella canzoncina che cantava, vabbè, poi la trovo, insomma, magari la mando. La na na na na na na. Era questa la canzone dell'officina della Babilonia. Della camomilla. Vabbè, della camomilla, ci vuole pure una camomilla per noi. E due tè, due camomille, non sappiamo che cosa ci vuole. Ma cantiamo la canzone. Candy, oh Candy, nella vita sola non sei, anche nella neve più bianca, più alta che mai. Oh, abbiamo delle belle. Candy, oh Candy, che sorrisi grandi che fai, ero filato, che felicità, e a spasso col suo gatto se ne va, che era un procione, un procione. Magari era un frocione, perché Albert poteva essere sempre gay. Esatto, non è che... Che nella, in realtà... Anche perché in Giappone sono molto più avanti noi, su queste cose. No, sono molto più indietro, quindi. No, no, no, non sono avanti, cioè, no. L'imperatore, allora. E mica è gay l'imperatore. Che c'entra? Mica era bello un imperatore gay, però io voglio un imperatore... Io l'ho sempre detto! C'è l'imperatrice depressa. C'è l'imperatrice depressa. A proposito, no, lancio l'appello... del mio fidanzato, io sto cercando un fidanzato. Candy cerca disperatamente un fidanzato gay. però io sto cercando di farle capire che se è gay non può stare con lei. Comunque io invece... Ma perché? Ma perché non esiste? Io basta, non ce la faccio più ad avere tutti questi... Oppure hai qualche sorpresina in serbo e quindi... No, che ti sorprende? Cioè, hai velato qualche messaggio subliminale? No, è perché visto che voglio... vanno tanto di moda adesso. No, è perché voglio contrastare... Vabbè, niente, basta. Non lo dico che sennò poi mi sputtano troppo. Che cosa vuoi contrastare? No, basta. La noia e la paranoia di questo momento. Vabbè. Va bene, te lo dico io perché... Gli uomini che cerchi tu saranno sicuramente più sensibili degli altri, più premurosi degli altri, più carini degli altri, più gentili degli altri, insomma... Un uomo che non esiste se non dall'altra sponda. Vi salutiamo. Ok, vi salutiamo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Aspettate un attimo che chiudo tutto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Foto tessera di mio padre andava a fuoco ed io stracciavo tutte le foglie viola che avevo sulla gogna, sulle mie labbra di panchina, la carcassa della lavatrice era marrone rossastra. Avessi avuto i fiammiferi, avessi avuto la voglia delle antenne incastrate nelle stelle, le antenne incastrate nelle stelle. Io la fronte e tutte le costole vi spaccherò a sassate, perché vi odio, perché vi odio. Perché ti odio, la le la la la. E porta una borsa enorme per metterci dentro le bottiglie, un calice di tronco e di succo, di frutta di luna. Amore mio, sei verdissima stasera, verde cerotto avvelenato. Due ferite non sono rosse, sono lavanda di rosine di cascina, di stoviglie di benzina. Dove io ti porterò a dormire il pomeriggio, zeppo di violini rotti senza corde, buoni per il fuoco. Che avessi avuto i fiammiferi, avessi avuto le dita, la la la. Le parole di seppellitrice sono mazzi di fiori spaccati in faccia. Le parole di seppellitrice sono capelli in bocca e credenze sfondate di pugni e schiena rotta di pioggia e schiena rotta di lumaca.